Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Libico si fa esplodere davanti a una caserma di Milano. Lievemente ferito un militare, la Santa Barbara già nel mirino di altri presunti attentatori. Immunità parlamentare, interviene il ministro della giustizia, non è nel programma del PDL. Tre arresti a Pistoia per l'agguato alla sede dell'associazione di destra radicale Casa Pound. Calcio, Totti ai mondiali di Sudafrica, il presidente Abete, la porta è aperta. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura, fra poco ci collegheremo con Milano per la conferenza stampa con i dettagli sull'attentato di questa mattina davanti ad una caserma di Milano. Prima però notizia di pochissimi istanti fa, assegnato il premio Nobel per l'economia, Adriana Fracchia. Sì, sono due i premi assegnati oggi dalla Banca Centrale Svedese, uno a Elinor Ostrom per le sue analisi della governance economica e a Oliver Williamson. Vi daremo maggiori aggiornamenti durante questa edizione. Grazie Adriana Fracchia, vi ricordo anche alle 13.30 uno speciale di Radio 24 dedicato proprio all'assegnazione del premio Nobel per l'economia. Adesso, come detto, ci spostiamo a Milano, andiamo alla conferenza stampa del procuratore Spataro, dove si sta facendo chiarezza su quanto avvenuto questa mattina davanti alla caserma Santa Barbara di Milano. Un attentato, lievemente ferito un militare, ferito invece gravemente l'attentatore, un uomo, un libico di 35 anni. Andiamo con Valentina Furlan. Sì, come diceva in corso la conferenza stampa del procuratore aggiunto Armando Spataro, coordinatore del pool antiterrorismo, il quale ha chiarito la dinamica. Quest'uomo, che si chiama Game Mohamed, del 1964, quindi appunto 35 anni, libico, in Italia dal 2003, che convive con una cittadina italiana ed ha due figli, ha tentato di entrare nella caserma, è stato fermato dal piantone, ha fatto esplodere un quantitativo. Per il momento non si capisce ancora di che quantitativo si tratta, si era parlato di 2 chilogrammi, ma il procuratore non lo ha confermato. L'esplosivo si tratta di nitrati, non si sa se sia stato confezionato in casa, ma la quantità appunto non è ancora accertata. Di sicuro c'è che non è esploso tutto il quantitativo dell'ordigno. L'attentatore è ora in ospedale, è stato sedato, è gravemente ferito, ha lesioni al volto e ad un braccio, mentre il procuratore ha detto che per quanto riguarda il militare ferito sarebbe veramente una ferita minima, un graffio. Infine Spataro ha parlato di attenzione massima da parte delle forze dell'ordine, degli inquirenti, ma ha chiesto di non enfatizzare l'episodio. Bisogna verificare, ha detto, il contesto, se si tratta di un episodio isolato. Inoltre, per quanto riguarda le affermazioni di Francesco Rutelli, presidente del Copasir, ha detto che escludiamo che siano arrivate notizie di progetti riguardanti questa caserma, che riguardino appunto progetti di terrorismo. Ed è tutto. Grazie a Valentina Furlanetto per questi aggiornamenti. Naturalmente qualità e quantità dell'esplosivo usato questa mattina per l'attentato davanti alla caserma Santa Barbara sono determinanti per capire quali erano le reali intenzioni dell'attentatore. Se ci saranno novità, torneremo a collegarci con Valentina Furlanetto. Adesso invece la politica, perché dopo i nuovi attacchi alla Consulta da parte del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, oggi è intervenuto il Ministro della Giustizia a proposito dell'ipotesi di reintrodurre l'immunità parlamentare. Il programma del PDL non la prevede, ha detto Alfano. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Riforma della giustizia, immunità parlamentare, elezione diretta del capo del governo. Riparte da questi argomenti la settimana parlamentare. La maggioranza assicura non c'è nessuna relazione tra la bocciatura del lodo Alfano e la nuova stagione di riforme, tra queste e quella della giustizia. Fatto sta che il centrodestra accelera proprio su questo argomento. Il ministro Alfano, come dicevate da studio, ha spiegato al termine di un iter che tocca il processo civile, quello penale, le norme antimafia e la sicurezza, faremo la riforma costituzionale della giustizia. Resta aperto però il capitolo di un eventuale ritorno ritorno dell'immunità parlamentare. Lo stesso Alfano frena: non abbiamo lanciato noi l'idea di fare l'immunità, ma aggiunge vi è comunque la necessità di stabilire un confine certo tra l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Sul tema va cauto anche il capogruppo vicario del PDL alla Camera, Bocchino. Sentiamo le sue parole. Non è scandaloso tornare al testo sull'immunità parlamentare che scrissero i nostri costituenti. Ovviamente non si può fare a colpi di maggioranza. Va fatto solo ed esclusivamente se lo condivide il Partito Democratico. Altrimenti sarebbe molto impopolare e inutile perché il referendum lo boccerebbe. L'immunità, dice sempre dal centrodestra il ministro Brunetta, rende gli uomini politici più liberi per le riforme. Dal Partito Democratico tuttavia Franceschini risponde: ripristinarla sarebbe un insulto. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E questa mattina è intervenuto il capo dello Stato Giorgio Napolitano a un convegno alla Sapienza in cui si parlava di università e ricerca. Napolitano ha detto: la spesa pubblica è oltre i limiti di indebitamento tollerabile e anche per questo bisogna ricondurre sotto controllo il debito pubblico esistente. Alla Sapienza, dicevamo, con gli studenti che hanno anche inscenato una nuova protesta anti-Gelmini. Sentiamo. La spesa pubblica è oltre i limiti e va riportata sotto controllo. È questo il richiamo lanciato stamattina dal Presidente della Repubblica nel suo intervento ad un convegno all'Università La Sapienza di Roma, ma per Napolitano sono anche necessarie nuove priorità nella distribuzione delle risorse disponibili a partire dalla ricerca. Ci dobbiamo anche un po' chiedere il perché di queste difficoltà ad ottenere un sufficiente impegno anche finanziario pubblico e poi nello stesso tempo non dimentichiamo l'importanza di un adeguato impegno finanziario del settore privato per la ricerca. Approfittando della presenza di Napolitano, alcuni studenti hanno inscenato una nuova protesta contro il ministro dell'Università Gelmini e due di loro si sono anche calati con una corda dal tetto della facoltà di lettere. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora andiamo all'estero. In Pakistan un attentatore si è lanciato oggi contro un veicolo militare vicino ad un mercato nella città nord occidentale di Alpuri. Nell'esplosione sono morte 41 persone, in gran parte civili, decine i feriti. Si tratta dell'ennesimo attacco in quell'area del paese. Adesso invece andiamo in Iran, dove cresce il numero dei condannati a morte. Sono 6 gli appuntamenti con il patibolo che la Corte rivoluzionaria di Teheran ha fissato per altrettanti manifestanti che hanno partecipato alla protesta contro la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Lo rende noto oggi il sito web dell'opposizione iraniana Mawjkam, che in mattinata aveva fornito il nome della quarta vittima dei boia islamici. Si chiama Hamed Rouhinejad ed è stato riconosciuto colpevole di avere legami con un'organizzazione monarchica, come due degli altri condannati a morte di cui si è avuta notizia appena 3 giorni fa. Il sito, che ha reso noto i nomi di 3 dei condannati, fornisce gli iniziali degli altri 3 ed afferma che 2 di loro sarebbero stati arrestati addirittura prima delle manifestazioni di protesta contro i brogli avvenuti nel voto dello scorso giugno. Adifat Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo in Gran Bretagna, dove il Premier Gordon Brown ha annunciato oggi la vendita di beni pubblici per 16 miliardi di sterline, oltre 17 miliardi di euro nei prossimi 2 anni. La notizia apparentemente shock di Brown, se vogliamo, insomma, dice che tra le proprietà statali che verranno cedute ci sono il tunnel ferroviario sotto la Manica, il ponte di Dartford sul Tamigi, il sistema di scommesse TOT e il 33% di Urenco, l'azienda che arricchisce l'uranio per le centrali atomiche e numerose proprietà immobiliari ancora. La vendita, detto Brown, contribuirà a ripianare il debito gonfiato dalla crisi, ma è necessario continuare con il programma di stimolo all'economia fino a quando la ripresa non si sarà consolidata. Oggi vertice, stiamo parlando ora di influenza A, vertice a Lussemburgo dei ministri della sanità europei. In Italia intanto è iniziata la distribuzione dei vaccini al personale sanitario. 500.000 dosi di vaccini dei 25 milioni destinati alle categorie professionali a rischio. Parte dal personale sanitario il piano influenza A, che entro ottobre fornirà antidoti anche per 1,5 milioni di impiegati nei servizi essenziali, forze dell'ordine in testa. Le dosi vengono consegnate dalla Croce Rossa Italiana. Il responsabile sanitario Ulrico Angeloni: la distribuzione avverrà con 3 punti di riferimento in tutta Italia. La partenza sarà per centro-nord, diciamo, la Lombardia, quindi Milano, per la Toscana da Siena e per invece il centro-sud e isole da Pomezia. Poi all'interno della regione la ASL si occuperà poi di distribuire nelle ASL e nei centri di vaccinazione. Come tempi ci siamo presi tra i 5 e i 7 giorni. Intanto nel pomeriggio un consiglio UE definirà l'accesso alla prevenzione per tutti gli stati membri europei e per i paesi in via di sviluppo. Saranno poi 4 i vaccini approvati ufficialmente. E resta in rianimazione il ragazzo di 15 anni ricoverato a Firenze. Giovanna Boglietti, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo al nostro sondaggio di oggi. La riforma del codice della strada in discussione prevede per i neopatentati e per gli autotrasportatori, come sapete, tolleranza zero, ovvero divieto assoluto di bere alcolici. Le associazioni vittime della strada però vanno oltre, chiedono anche per tutti i conducenti tasso zero di alcol. Divieto assoluto dunque di bere per chi guida. La domanda era: siete favorevoli? Queste le vostre risposte. Divieto assoluto di alcol per i neopatentati e per chi lavora sulle strade. Presto le novità potrebbero diventare legge, ma c'è chi si spinge oltre e chiede zero assoluto di alcol per chiunque si ponga alla guida. È il caso dell'ANIA, l'Associazione delle Compagnie Assicuratrici, per bocca del segretario Umberto Guidoni. Sosteniamo che chi guida non deve bere, così si taglia veramente la testa al toro. È inutile dire 02, 05, 03. Ciascun fisico, a seconda se si è maschio o femmina, a seconda dell'età, a seconda del proprio metabolismo, risponde all'alcol in maniera diversa. Quindi noi diciamo, chi guida non beve, e questo elimina qualsiasi tipo di polemica su questo tipo di aspetto. Ma voi sareste favorevoli a introdurre lo zero assoluto per chi guida? Solo il 42% di chi ha risposto al sondaggio di oggi sarebbe disposto, mentre per il 58% di voi la misura è troppo severa. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 e per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E aveva invece legato il suo nome a una bevanda che alla salute cercava di non arrecare danni. Tommaso Berger, l'imprenditore conosciuto nel mondo come il re del caffè Hag, è morto a 80 anni. Negli ultimi anni era stato protagonista di una accesa battaglia persino contro i suoi figli. Si è spento a 80 anni a Rio de Janeiro Tommaso Berger, il re del caffè Hag, delle acque minerali Fiuggi, San Gemini, Levissima e di tanti altri marchi. Un romanzo amaro e toccante, la sua storia, un tassello della storia italiana degli ultimi 70 anni, dal miracolo economico ai furbetti del quartierino, raccontata nel 2007 nella sua autobiografia Onora il padre. La storia di un ebreo nato a Vienna nel 1929 che da bambino sfugge alla persecuzione nazista. Nell'Italia del dopoguerra costruisce un impero da 150 milioni di dollari. Impero dal quale, aveva scritto Berger, era stato poi estromesso dalle persone a lui più vicine. Come re Lear sono stato espropriato dai miei stessi figli e dai miei consulenti, si legge nel libro. La differenza è che le tragedie un tempo avvenivano per bramosia di sovranità e di potere, oggi avvengono per avidità di denaro. Contro quel libro, il figlio Roberto, che in prime nozze sposò Loredana Bertè, ha poi intentato una battaglia legale contestando le accuse del padre, sostenendo di non aver distrutto il patrimonio di famiglia, ma anzi di averlo aumentato. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. 13, 16 minuti e 50 secondi nella prima parte di GR24. Ci siamo occupati dell'attentato davanti alla caserma militare di Milano. Un libico di 35 anni si è fatto esplodere, lievemente ferito un militare italiano. E poi, dopo le polemiche sul lodo Alfano bocciato dalla Corte Costituzionale, sull'immunità parlamentare, su questa ipotesi interviene il ministro della Giustizia Alfano, che dice non è nel programma del Popolo della Libertà. E poi inizia oggi la distribuzione del vaccino contro l'influenza A per il personale sanitario italiano. Abbiamo parlato anche del premio Nobel per l'economia. Di qua ripartiamo con Adriana Fracchia, che ha raccolto qualche elemento sui due che hanno vinto il riconoscimento dell'Accademia di Svezia. Sì, lo ricordiamo, la Banca Centrale Svedese ha premiato, ha dato due premi a pari merito, uno per la prima volta ad una donna, Elinor Ostrom, e un altro a Oliver Williamson. Sono entrambi economisti americani. Per quanto riguarda la Elinor Ostrom, che è nata nel 1933 e insegna all'Indiana University, Lei si è occupata di una delle questioni più antiche e controverse nel campo della gestione di beni comuni della collettività, come l'utilizzo di risorse comuni può essere organizzato in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo sia i costi amministrativi troppo elevati. La Ostrom sostiene con vigore l'esistenza di soluzioni alternative alla privatizzazione e alla possibilità di creare istituzioni di autogoverno permanenti. Quanto invece a Oliver Williamson, che è nato nel 1932 e insegna alla Berkeley University, è l'ideatore del filone di studi che prende il nome di economia neo-istituzionalista, conosciuta anche come economia dei costi di transazione. E di questi due studiosi seguiremo durante tutta la giornata le ricerche e gli studi che hanno fatto. Grazie Adriana Fracchi, a cominciare con uno speciale che andrà in onda alle 13.30 al termine di questa edizione di GR24. Adesso alcune notizie di cronaca. Questa mattina una vasta operazione contro l'andrangheta è scattata nel Crotonese, nel mirino della polizia, la cosca dei cosiddetti papaniciari, una operazione che ha portato anche all'individuazione di beni per almeno 35 milioni di euro. E poi 15 arresti nella provincia di Benevento per corruzione e truffa in appalti pubblici sono stati eseguiti oggi dalla Guardia di Finanza in seguito alle richieste emesse dal GIP del Tribunale di Benevento. In manette è finito anche il sindaco di Telese Terme, Giuseppe Docchio, il comune famoso per ospitare da anni la festa dell'Udeur di Clemente Mastella. E adesso andiamo a Roma, dove ci sono stati altri due gay aggrediti. Domenica pomeriggio, pieno centro di Roma, Massimo, 50 anni, presidente del Leather Club, un'associazione gay romana, e il suo compagno Francesco, 25, camminano mano nella mano verso il Pantheon. Ogni tanto si scambiano qualche effusione. A un certo punto si avvicinano sei ragazzi in scooter, hanno 16, 18 anni, caschi, occhiali da sole, urlano slogan fascisti, poi le botte, gli spintonamenti. Francesco viene colpito alla testa e all'inguine, Massimo riesce a scappare. Ennesimo episodio di omofobia nella capitale, anche questa volta gli aggressori sono giovanissimi. Dura condanna da parte del presidente dell'Arcigay Roma, Fabrizio Marrazzo. Sicuramente il clima che c'è adesso è un clima allarmante che deve essere contrastato sia con azioni sul territorio ma anche con un forte piano culturale che deve far capire che questa città non accetta e respinge queste azioni. È paradossale che sabato abbiamo fatto una manifestazione molto partecipata su questi temi e poi il giorno dopo, diciamo, purtroppo non è cambiato nulla. Un episodio inaccettabile e intollerabile, ha commentato il sindaco Gianni Alemanno, auspicando che si arrivi subito ad identificare i responsabili, mentre il Partito Democratico parla di una città ormai fuori controllo. Alessandra Schepisi, GR24, Sole 24 Ore, Roma. E a Pistoia tre arresti per l'irruzione e la devastazione della sede dell'associazione di destra radicale Casa Pound. Tra gli arrestati, secondo quanto riferito questa mattina dalla questura, c'è anche il segretario regionale delle CARC, il partito dei comitati d'appoggio alla resistenza per il comunismo. E sentiamo al microfono di Katia Caramelli Gianluca Iannone, presidente di Casa Pound Italia. Un gruppo di 20 persone armato ha fatto irruzione all'interno del circolo Vago G, che è sezione di Pistoia di Casa Pound Italia, e ha devastato tutto quello che ha trovato davanti. Cioè, all'interno c'era un militante di Casa Pound che stava parlando con un consigliere comunale di AN, si sono barricati dietro una scala e quindi per fortuna non si sono fatti male abbastanza, ecco, evidentemente, visto che hanno infierito, sono rimasti lì per un bel po' di tempo e poi sono scappati. Quarta aggressione in pochi giorni, Iannone. È la quarta aggressione in pochi giorni, dopo Verona, Torino, Napoli, di una lunga serie, no? Perché se noi calcoliamo che lo scorso anno, cioè dalla nascita del movimento ad oggi, sono state più di 40 le aggressioni. Vi sentite sotto tiro, quindi? Un bersaglio. Quello che crediamo noi è che la nostra politica, la nostra presenza sul territorio sia ovviamente un fastidio per chi crede di avere il copyright su alcune battaglie. In realtà qui si parla di tolleranza, si parla di rispetto, si parla di confronto, però questo non viene mai applicato. One, two, three, this is it, here I stand, I'm the light of the world, I feel grand, this love. Quello che state sentendo in sottofondo è This Is It, il brano inedito di Michael Jackson che si può ascoltare da oggi e che anticipa l'uscita del doppio album dell'omonimo titolo che verrà pubblicato in Italia il 27 ottobre da Sony Music. Il CD anticiperà a sua volta l'uscita nelle sale del film Michael Jackson's This Is It, prevista per il 28 ottobre. Da questa data per due sole settimane si potrà vedere l'omonimo film documentario della Sony su Michael Jackson, nonché le prove dei concerti che il re del pop avrebbe dovuto tenere a luglio, cancellati dopo la sua morte avvenuta il 25 giugno scorso. Lasciamoci alle spalle Michael Jackson, adesso invece parliamo di sport. Con il calcio a Coverciano, la nazionale prosegue la preparazione in vista della sfida di mercoledì a Parma contro Cipro, ultimo impegno delle qualificazioni mondiali. Con il biglietto per Sudafrica 2010 già in mano, il CT Lippi darà spazio a chi ha giocato di meno come Santon, D'Agostino e Giuseppe Rossi. E intanto, a 8 mesi dall'inizio dei mondiali, è già iniziata naturalmente la corsa alla convocazione in azzurro. Nazionale, un club a porte chiuse. 15 maglie sono già assegnate. Una, quella che dovrebbe toccare all'Oriundo Amaury, sembra ormai certa. Per le altre i dubbi sono pochi. Oltre al nucleo storico dei campioni di Berlino ci saranno giovani già affermati come Marchisio, Criscito e Chiellini. È quasi fatta anche per Pepe, D'Agostino e Giuseppe Rossi, sempre che la stagione prosegua meglio di come è iniziata. Il campionato è una variabile che Lippi potrebbe non prendere in considerazione. Conteranno più le amichevoli di lusso che l'Italia giocherà da qui a primavera. Per il CT, infatti, il gruppo viene prima di tutto. Prossime allo zero le chance di Cassano, Totti può ambire ad una convocazione, come ha detto il presidente federale Abete, visti gli ottimi rapporti che da sempre ha con Lippi. Sui big in bilico, secondo l'ex CT Azeglio Vicini, è fondamentale tenere conto delle esigenze della squadra. Sarà determinante il campionato, poi la squadra ha anche delle esigenze speciali, però credo che Cassano se farà bene sicuramente al pari di Totti. Poi la faccenda è che sono tanti i buoni giocatori. Devono giocare gli 11 che messi assieme fanno la squadra migliore, questa è la realtà. Intanto Lippi andrà ai mondiali con il contratto in scadenza, esattamente come è accaduto 4 anni fa. Per l'erede si fa il nome di Francesco Rocca, CT dell'Under 20. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. E a 2 mesi e mezzo dall'incidente di Budapest in cui rischiò la vita, Felipe Massa è tornato questa mattina a guidare una monoposto Ferrari. Il pilota brasiliano alle 10.45 è sceso in pista a Fiorano a bordo di una F2007 privata. Massa, che tornerà alle gare la prossima stagione, ha completato alcuni giri dopo una rapida sosta ai box. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessio Maurizi, e al coordinamento Maria Piera Ceci, regia Pietro Lacorte. Adesso vi ricordo lo speciale con il direttore Gianfranco Fabi, dedicato all'assegnazione dei premi Nobel per l'economia. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.